Dal 14 al 16 aprile a Bologna arriva una nuova edizione del Festival dell'Antropologia. Io sono qui per parlarne con Annalisa. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie a voi, grazie. Siamo giunti ormai alla sesta edizione del Festival dell'Antropologia. Ti volevo chiedere, Annalisa, quest'anno qual è il tema di questa edizione e se c'è qualche novità? Allora, sì, ci sono molte novità. Il tema quest'anno sarà confini. Abbiamo scelto una parola al plurale e confini ci sembrava quella più rappresentativa dei nostri, diciamo, intendimenti. Confini ci è venuto in mente intanto chiaramente per i tratti sulle cartine, poi per noi il festival è sempre stato un modo di discutere scelte politiche e momenti critici che viviamo nella nostra vita quotidiana, e quindi insomma col governo più a destra, come viene definito all'estero, dalla fine della seconda guerra mondiale, ci sembrava opportuno riflettere anche sui confini, questo innalzamento delle frontiere di cui sentiamo parlare ogni giorno. I confini inoltre ci sembrava anche molto interessante all'interno dei discorsi sui rapporti interpersonali, quindi quali sono i confini dei corpi, quello che ci fa pensare al consenso, ai limiti che non si possono superare, quindi anche a dei limiti che viviamo come imposizione e invece a dei diritti che rivendichiamo sempre più forte. Quindi confini era un po' un contenitore che riusciva a rappresentare tutto questo. E quest'anno la novità sarà che lo staff è in parte cambiato, in realtà stiamo ancora imparando dai più grandi che ci stanno lasciando questo testimone, proprio perché crediamo che il festival non appartenga a nessuno, ma che sia un dono da lasciare, insomma, alla comunità e di cui ognuno può partecipare se ci si è gratificato. E quindi quest'anno c'è uno staff, diciamo, un po' più giovane, ma inesperto, ma molto, molto, come dire, entusiasta, ecco, di farne parte. Infatti avete comunque organizzato una magnifica tre giorni, più o meno, 14, 15, sì, tre giorni, ho contato bene. Esatto. E ti volevo chiedere quali saranno gli ospiti di queste giornate, appunto. Allora, intanto sicuramente gli ospiti più famosi per gli antropologi saranno Marco Aime, Francesco Remotti, poi ci saranno molti professori del nostro Ateneo come Ivo 40, Karin Pallaver, poi parteciperanno anche alcune cooperative e associazioni di Bologna come l'associazione Approdi, che si occupa appunto di migranti, persone migranti e salute mentale, oppure il gruppo trans delle persone trans di Bologna. Insomma, quest'anno stiamo imparando a dare voce alla comunità, cercando di appunto poter fare eco per persone che spesso fanno fatica a esprimersi perché la loro voce viene silenziata, appunto. E quindi gli ospiti principali saranno loro. Poi verrà presentata questa mostra che è stata inaugurata da poco al chiostro di San Giovanni in Monte, che si chiama Sguardi Plurali. Parteciperanno Pietro Cingolani, che è un antropologo dell'Università di Bologna, Chiara Scardozzi, antropologa visuale, e Viviana Gravano, invece, che è una curatrice d'arte. E poi, insomma, avremo tanti tanti ospiti, sia professori che appunto più attivisti. Annalisa, non ci resta che capire, scoprire dove si svolgerà il festival e come si può partecipare. Allora, quest'anno finalmente il festival tornerà pienamente in presenza, senza la necessità di prenotarsi, era il nostro obiettivo dal Covid, diciamo, quindi finalmente saremo più tranquilli. Si svolgerà in via Zamboni 38 nelle sedi dell'università e in piazza Scaravelli 2. Non è necessaria appunto la prenotazione, noi consigliamo di arrivare sempre un po' prima per poter essere sicuri di assicurarsi appunto il posto e quindi non avere troppi problemi, perché immaginiamo una discreta affluenza soprattutto per le iniziative un po' più grosse. E quindi vi aspettiamo tutti il 14, il 15 e il 16 aprile in via Zamboni 38 e via Scaravelli 2. Perfetto, Annalisa, grazie mille per averci raccontato anche quest'anno il Festival dell'Antropologia. Grazie mille a voi.